Guarda, la resistenza è una mosaica di gruppi e di fattori che sono sempre entrate via via dall'occupazione ad oggi, ma c'era un fattore fondamentale che avevo anche annunciato in varie occasioni, prima dell'attacco, dell'invasione americana, che l'Iraq, Saddam Hussein aveva fatto armato tutta la popolazione, anche i cristiani, quando avevo chiesto ai cristiani, al patriarcato, ma vi hanno proposto le armi, ha detto sì, i cristiani sono liberi di prenderlo o no. Poi aveva organizzato una mobilitazione che si chiamava Al-Quds, di 5 milioni su tutto il territorio di uomini, anche donne, che due volte a settimana faceva allenamenti, perché, come me l'avevo detto anche Tariq Aziz, noi contro la superpotenza americana non possiamo mai vincere, non vinceremo mai, non abbiamo nemmeno un aereo da poter far decolare e ci fanno disarmare, non per di più adesso. Dunque si attaccheranno, si bombarderanno, vanno di uovo a distruggere e poi sarà l'occupazione. Ma è qui che non conoscono il popolo iracheno che resisterà e resisterà fino alla fine. Dunque queste erano le parole di Aziz nel contesto di questa mobilitazione. E come è stata organizzata la mobilitazione? Da gruppi che chiamavano gruppo di comando autonomi, che avevano una regione, cioè una zona particolare da controllare e che potevano prendere le decisioni in modo il comando di questa zona autonomo, autonomamente. A questa situazione pre-attacco e invasione si è aggiunta un'altra, che le tribù irachene, che sono numerose e anche potenti alcune, che no, prima non erano tanto coordinate tra di loro. Io ho incontrato a lo scorso febbraio a Damasco 31 sheikh di queste tribù iracheni che rappresentano oltre 7 milioni di iracheni, un terzo della popolazione. Sono tribù riunite che sono riunite in una tribù chiamata Al-Jabur. E il capo delegazione mi aveva dichiarato: guarda padre, fino a quando ci sarà un solo militare di forza di occupazione nel nostro paese, faremo di tutto per rimandarle a casa. Questa realtà di tribù è venuta aggiungersi alla realtà di questi gruppi di resistenza. Poi un terzo elemento è entrato, soprattutto dopo i 3-4 mesi che hanno seguito l'occupazione del paese, sono i gruppi di estremisti islamici, terroristi, cioè quelli di Al-Qaeda, ma altri anche, e che avevano azione e anche adesso praticamente molto più autonome e pochissime coordinate con alcuni gruppi della resistenza, perché l'Iracheno non ha lo spirito, non ha la mentalità dell'estremismo islamica o di questo tipo di azione come Al-Qaeda. Allora, adesso a Fallujah cosa fanno gli americani? Fanno un vero massacro, cioè continua il genocidio. E un anno e mezzo dopo che così dichiarato da Bush la fine della guerra, bombardano ogni giorno, ed è questo un scandalo, perché se i media di tutto l'Occidente si interessano ai sequestrati, ed è giusto, per carità, è giusto per il paese, per le famiglie, però le famiglie, intere famiglie che muoiono ogni giorno adesso sotto i bombardamenti a Fallujah non sono nemmeno menzionate, non si sa nemmeno il numero dei morti iracheni, come se fossero dei cani. Dei americani sappiamo fino all'ultimo, però di iracheni no. Cosa fanno adesso? Preparano un'azione militare che già è iniziata con i bombardieri, perché il glorioso esercito americano, così forte nelle sceneggiature hollywoodiane, qui non è cinema, è la realtà, hanno paura, cioè non ce la fanno nemmeno con dei carri armati, tutta l'alta tecnologia e armamento che hanno a disposizione, hanno paura contro gente che hanno solo delle Kalashnikov, perché qui c'è una resistenza forte. Allora mandano i F-15, bombardano senza discriminazione donne, bambine, uomini, eccetera, e dicono: ah, ma qui c'erano dei terroristi, stiamo cercando dei terroristi. Siccome se la Spagna si metteva a bombardare tutto il paese basco, massacrando tutta la popolazione perché c'è lì i baschi autonomi. Padre Benjamin, una domanda adesso volevo farle sulle elezioni. Ecco, presso la popolazione, presso la società civile irachena, che valore hanno queste elezioni? Ma che valore hanno? Hanno messo lì quel pupazzo di agente della CIA di Alawi, che da 21 anni era lì alle spese del Pentagono e della CIA, che poi gli hanno detto adesso ti mettiamo a Baghdad e tu ti farà quello che ti diciamo noi, no? Si vede, no? Allora, cosa fa questa Alawi? Fa massacrare il suo popolo con dei bombardamenti, anche su Fallujah e altre, che è una cosa abbastanza paradossale quando si porta la democrazia, e organizzano delle elezioni che sono in tal complesso caotico di paesi che non potranno fare e verificare come sono andate effettivamente le parti del paese che avranno potuto andare alle urne e una parte importante di zone che non avranno la possibilità di votare. Siccome si diceva, in Italia c'è un po' di confusione, alle prossime elezioni potrà votare la Padania, un po' del sud, probabilmente Baghdad, ma la Sicilia sarà un'altra volta. No, è esattamente la stessa cosa. Quale validità avrebbe una tale elezione? Prima. Poi vanno a eleggere chi e cosa, non si sono messi ancora d'accordo nemmeno su Al-Sadr o sulle varie rappresentanze, chi potrà presentare il suo partito e chi non lo potrà, eccetera. Hanno escluso il più grosso dei partiti, che era il partito Baas, no? E i cristiani, per esempio, non sanno nemmeno da chi saranno rappresentati, e sono lì organizzato in un paese che non ha una costituzione, perché hanno cancellato la vecchia, l'altra, che non ha un esercito, che non ha che ha cancellato i più importanti paesi, e con il rischio che i sciiti maggioritari, che hanno già dichiarato che se vincono l'elezione vogliono mettere una repubblica islamica, che sarebbe abbastanza paradossale per un'impresa di democratizzazione di un paese. In quel caso cosa faranno? Come per l'Algeria, quando hanno finalmente dato a votare il popolo algeriano di Algeria e hanno dovuto cancellare le elezioni perché era passato il FIS, il Partito Islamico di Salvezza, a larga maggioranza, allora le hanno cancellate e si vede adesso cosa sta accadendo in Algeria. Ecco, non ha legalità. È un paese sotto occupazione militare, fine di fare delle elezioni con un paese occupato militarmente e un rappresentante alle ordini dell'occupante, non può funzionare. Non credo che cambierà qualcosa, se non rendere la situazione in Iraq ancora più complicata e complessa, perché chi sarà stato escluso rischia allora di nuovo riprendere le armi e entrare in ribellione. E parlando ora dello scenario internazionale, anche se dovesse vincere alle elezioni americane invece Kerry, lo stesso Kerry ha detto che non prima del 2008 lui ipotizza un ritiro, quindi la situazione non sembra destinata a cambiare presto. Ma non può, cioè, il problema non è un presidente democratico, un presidente sì può cambiare alcuni aspetti esterni di facciata, ma il problema è che hanno rotto l'uovo e non sanno più come cucinare la frittata, se mi permettete l'espressione, cioè, e l'ingrediente utilizzato fino adesso, cioè B-52, Apache, eccetera, bombardare, massacrare, cioè, fa soltanto esasperare ancora di più la popolazione, la resistenza, eccetera, e un Kerry cosa può fare di più? Cioè deve cambiare la ricetta completamente. Se mantiene questa stessa ricetta di violenza, di aggressione, di occupazione, non cambierà di una virgola la situazione, anzi rischia di peggiorare perché il popolo è all'esasperazione estrema.